Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Siamo un bar dove si discute animatamente. Chi è che parla? Oscar Giannino. Oscar Giannino. Oh, appena la Lega diventa nazionale. Nazionale va a fare dei mondiali. Sarebbe come dire che in una banca non possono, italiana, non ci possono essere degli inglesi o dei francesi. Mai sfidare i giganti. Spesso c'è molta superficialità. La dobbiamo finire di perdere partite di calcio come se perdessimo la guerra, diceva Churchill. Questo signore che dà giudizi è il classico italiano da bar, mi dispiace. È il maschio Furlano lì, mi sta male, posso parlare? I maschi padani. Proprio un secondo, perché quella voce che prende quel respiro. Chi abusa è un farabutto. Sono una boria. E chi ha fatto questa legge elettorale? Beh, ragazzi, forse è meglio che vi informate. Non ha calcolato bene gli effetti sistemici di questa legge elettorale. Uno a caso, diciamo così. Una battuta cattiva uno a su caso. Renzi. Sento un grido di rabbia della creatura. Sto preparando la pappa. No, voglio essere grasso. Prendete esempio da me, 90 kg. Io non fumo sigarette, ma fumo sigarette toscane, lo sanno tutti. Verrebbe naturale un suntuoso, chi se ne frega, però... Lo Stato fa come cazzo gli pare. Un'opera è di chi l'ha fatta, qualunque cosa abbia fatto, altrimenti non la distribuite. Reach out and touch me. Popolo dei già svegli, buongiorno! È un giorno duro, anche questo. È un giorno segnato per me e per la scelta che vi propongo dalla lettera di una donna, scritta come il comunicato di un politico di House of Cards, drammatica come la confessione di chi sta soffrendo, e la lettera della moglie di Fausto Brizzi, ne parleremo fra poco. Poi ci sono tante cose, ma questa giornata è segnata da questa ferita, da questo strappo. È un atto d'accusa contro i media e il grido di autodifesa di una madre che è in difficoltà. E allora buongiorno, è con noi Mario Giordano, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. L'avresti messa d'apertura nel tuo TG questa lettera? Assolutamente sì, già ieri sera, pur non avendo la lettera ma avendo le sue prime dichiarazioni, ho fatto un titolo sulla moglie di Brizzi che difende il regista. Ma lo difende? Secondo me difende la sua famiglia, difende una ragion di Stato. No, dice sono accerchiata dai media, il circo dei giornalisti è sotto casa, devo credere a quello che mi dice mio marito. Quello che sento non corrisponde a ciò che è mio marito, però io ho letto proprio un esercizio sul filo. Un esercizio sul filo, è una difesa ovviamente della propria famiglia, mi sembra, ripeto, per quello che ho letto e che ho visto e che ho sentito in queste ore, è comunque un atto di coraggio, anche di denuncia di una sarabanda che, come sai, ho cominciato a denunciare dai primi giorni in cui è venuto fuori, in cui parlai di caccia agli streghi. Forse in questo caso non è così, sarà tutto da dimostrare, però che in effetti si sia creato un clima terribile da questo punto di vista è assolutamente vero. Il fatto che lei, essendo una vittima, lo mette in evidenza, secondo me mi pare molto, molto dignitoso, molto forte, molto bello da parte sua. Sì, però ne discuteremo meglio, perché secondo me è una difesa disperata, e alla fine io avrei voluto questa donna che riuscisse a dire o a non parlare o a tacere, perché anche il silenzio è una risposta, o che dicesse credo a mio marito, invece non lo dice mai. Sì, dice sono costretta a credergli, ripeto, rispetto a Brizzi la quantità di testimonianze che sono venute fuori sono talmente tante che è abbastanza inevitabile che qualche dubbio possa venire. E il silenzio non mi sembra, perché deve essere il silenzio? Perché siccome la sarabanda è partita, lei giustamente viene, poi io non lo trovo così, la trovo invece, l'ho trovato un gesto un gesto abbastanza inevitabile per come si era messa la cosa. Bene, Tavecchio non si dimette, diventa un'icona italiana di stile italiano. E l'altra cosa che forse è interessante e bella è che l'inno di Mameli, provvisorio dalla non lo sapevo, sai, io non sapevo che l'inno di Mameli era provvisorio, adesso è ufficialmente l'inno italiano. Adesso che è diventato finalmente definitivo, forse lo si potrebbe anche abolire, perché tutte le cose in Italia resistono quando sono provvisorie, nel momento in cui diventano vengono abolite. Ma l'altro è abbastanza singolare che diventi ufficialmente l'inno italiano dopo un secolo e mezzo, e nel momento in cui l'unica circostanza che abbiamo in cui lo cantiamo davvero, che è i mondiali, non ci vedranno protagonisti. Quindi è meraviglioso. E allora entriamo lì nel fritto misto con Travaglio, feroce con la nazionale italiana. Italia, manica di Pippe. È un momento in cui non abbiamo campione, abbiamo Pippe, e quindi quando mandi in campo una squadra di Pippe con un allenatore Pippa e un presidente super Pippa che non riesce a fare un gol alle Pippone della Svezia in due partite, beh, non ci può stare che stai fuori. Noi ce lo ricordiamo che cos'era lo sport italiano alle Olimpiadi negli anni 70, 80 e 90? Avevamo delle grandi eccellenze. Chi ci è rimasto? Marco è feroce, ma tu Mario sei due volte esperto di questo tema, perché sei un cuore granata che ha seguito quindi il percorso di Ventura al Torino, quello che lo ha portato alla nazionale. Ieri Cairo si è un po' dissociato, ha detto no, non era lui, era un po' stranito. Che ne pensi sul mistero di Ventura, l'unico che ha pagato? No, non è un mistero. Ventura non è mai stato un allenatore di grandi club, di grandi livelli. Nel Torino ha fatto benino per alcune cose, non benissimo per altre, quindi non mi sorprende molto. Io sono d'accordo con Travaglio sull'idea dell'allenatore Pippa, un po' meno su quella dei calciatori Pippa, perché ho sentito molto denigrare i calciatori. Io non credo che questi giocatori che ci siano più Pippe degli svedesi che abbiamo avuto. Cioè abbiamo no, ma soprattutto abbiamo vinto dei campionati del mondo nel 2006 con giocatori che non erano poi tutti questi fenomeni, molto più di questi, e che potenzialmente sulla carta erano Pippe. C'era un altro clima, si era creato un altro ambiente. Detto questo, abbiamo giocato male, abbiamo giocato peggio delle Pippe svedesi, su questo ha perfettamente, e abbiamo perso. Quello che secondo me si è esagerato, come sempre in Italia, perché si è nello psicodramma successivo, cioè nel legare la sconfitta della nazionale, che è stata una sconfitta sportivamente incredibile, devastante, clamorosa, epocale, diciamo quello che vuoi, di legare tutto questo al dramma del paese. Fin dal primo momento, fin dalla prima dichiarazione di Buffon, quando lui dice è un fallimento sociale. Ma perché, Luca? Ma perché? Ma se per caso un rimpallo di Chiellini sul cross all'ultimo momento fosse andata dentro la palla, sì, non c'era più il fallimento sociale dell'Italia. Cioè sparivano i 5 milioni di poveri in Italia all'improvviso, sparivano i 13 milioni di italiani che non si sono curati, cioè all'improvviso il 40% dei disoccupati, perché c'era un rimpallo, perché il tiro di Florenzi per caso finiva dentro anziché un filo fuori. E che noi continuiamo a cercare alibi nel calcio, e anche questo psicodramma che poi tira in ballo gli immigrati, lo Ius Soli, perdiamo perché ci sono troppi immigrati, dice l'uno, l'altro Fassino l'altro giorno in TV dice no, per risolvere riuscite a fare lo Ius Soli. Cosa facciamo lo Ius Soli? Lo facciamo giocare centravanti? O regista? Forse è meglio regista, perché fa girare le palle benissimo, e quindi lo facciamo giocare regista. Mi sembra questo psicodramma eccessivo. Io l'abbiamo giocato male. Siamo delle pippe. Credo lo Ius Soli abbia mille problemi, non abbia nessuna influenza, diciamo, sugli esiti e i destini della nazionale. Possiamo dirlo, togliete la politichetta dal calcio. Ecco. Però pure Pirozzi, senti, fa il CT. È chiaro che questa è una crisi di un movimento dove non si è investito più nei settori giovanili, dove i grandi, per cui rapportiamolo anche nella politica, fagocitano i piccoli. Sai, quando ci sono delle sconfitte i responsabili sono tanti, perché come dico io, invece tanti scappano. Si sta candidando da solo, Mario. Vedi un nuovo Musumeci o un buchetto nell'acqua? No, vedo Musumeci non credo, perché insomma mi sembra che in questo momento non ci siano le condizioni per una sua candidatura unitaria, mi pare di capire, quindi almeno per il momento no, anche se insomma ha dimostrato di essere uno con le palle, di essere uno, quindi potrebbe essere un buon candidato, però in questo momento non mi sembra che ci siano le condizioni per arrivare a Musumeci, anche se sono perfettamente d'accordo con te sul fatto che mi dispiace questa uscita di Pirozzi, perché anche lui, cioè metterla subito sempre in politica, cioè buttare tutto il calcio in politica, secondo me è stato veramente, siamo riusciti, quando ho visto la partita lunedì sera pensavo che avessimo toccato il fondo, e invece nei giorni successivi, nelle ore successive, è andata sia peggio. Per il comportamento di Vettura e di Tavecchio, sia per il comportamento dei commenti collettivi del paese, siamo riusciti a far peggio persino di quello schifo che abbiamo visto in campo lunedì sera. E Bonolis però ha fatto un video e ha detto, sentite. Siamo stati eliminati dalla Svezia, bravi, bravi. No, ma è stata una tattica intelligente quella di fare continuamente cross, perché loro erano piccoli piccoli e quindi noi crossando li avremmo beffati con i colpi di testa. Vabbè, io quest'estate non vedo l'ora di vedermi Germania-Corea del Sud. Cacci. Germania, Corea del Sud. Intanto Milena Gabanelli ha riconsegnato il suo badge. Consegno il telefono aziendale, la chiave dell'azienda e 30 anni di lavoro. Da domani, tutte le volte che passo di qua, qualcuno mi faccia entrare perché consegno il badge. Vado via esattamente come fanno i grandi. Quando uno diventa adulto, prende, va via di casa. Ve ne farete una ragione. Hai sentito il tono sarcastico, avvelenato? È un dramma strano questo. Sì, è un dramma strano, del resto ci sta. Nel mi spiace, perché il lavoro della Gabanelli è apprezzabile da sempre e io credo che insomma, anche se lavorando nella società, nella concorrente, mi spiace sempre commentare le cose della Rai, però credo che perdere, come aver perso Giletti, si è dimostrato un clamoroso errore, così anche perdere una come la Gabanelli, che come abbiamo sentito anche da questo tono sarcastico, c'ha l'anima, si sente lì dentro, è una gravissima perdita ed è un errore clamoroso. Allora, non lo avete registrato, forse neanche lo sapete, ma nel giorno in cui l'Italia riconquista il suo inno, perde il suo Carrisi, che lascia la musica! Ho iniziato con questo vino qua, che è il Don Carmelo, che ho voluto dedicare a mio padre. Vino e olio sono sempre stati medicina. Medicina che può diventare anche medicina dell'anima. Parla del vino, adesso si dedicherà solo a questo. Potrai resistere a questo addio? No, ma però sempre di divertire, l'ho anche visto ieri sera un pezzettino, mi fanno sempre divertire la simpatia di tutto quello che vogliamo dire, però sono sempre degli addii rimandati, no? A fine 2018, sì, lui dice che... Cioè, quante volte tu hai già sentito... E come le divisioni di Tavecchio, diciamo. No, esatto. No, beh, lì siamo veramente alla cosa. Ma nel campo dello spettacolo, io ti faccio una domanda. Quante volte abbiamo già sentito... L'ultimo concerto. L'ultimo concerto dei Pooh, io credo che l'abbiamo sentito 27 volte. Cioè, tutte ma perché? Le volte, perché l'ultimo secondo te? Disco? Perché ovviamente è una strategia commerciale. Tu lanci, questa è l'ultima occasione, facciamo... l'ultimo tour, l'ultima esibizione insieme, poi l'ultimo concerto, poi dopo no, ti riunifichi, ne fai ancora uno, è evidentemente un modo di rilanciare, che perché se io devo lasciare, dico come fa la Gabanelli, consegno il badge e me ne esco, no che mi ritiro a fine 2018 dopo che avevo fatto due dischi, una tournée, nel frattempo presento il mio libro, mi pare, no? Allora, torna in discussione il Jobs Act, almeno virtualmente, perché è stato l'argomento di una trattativa improvvisata, tardiva, fra Fassino, Bersani, D'Alema. Boccia lo difende. Quando ascoltiamo qualcuno che vuole smontare il Jobs Act, evidentemente queste persone non sono di fronte a un'idea di società post-ideologica, ma vorrebbero ritornare a una società ideologica, dogmatica. Ma visto che è una trattativa fatta per la stampa, ma secondo te quanto interessa questo triangolo di Fassino, mediatore, che parla con Bersani, Renzi? le consultazioni di Fassino sì. sono diventate un genere comico straordinario. A parte il fatto in che posizione l'hai messo nel sommario del tuo TG? No, ieri pochissimo, secondo me questa gente non gliene fotte niente, si è detto sincero. Cioè delle consultazioni di Fassino non gli interessa niente. L'unica cosa è un sentimento di umana comprensione per quest'uomo che è stato incaricato di tenere insieme l'unica squadra meno coesa e meno compatta della nazionale di Ventura. L'una, la sinistra italiana è l'unica cosa che è meno, che si presenta in campo con una compagine però della nazionale italiana. E quindi, ma le consultazioni di Fassino, tra l'altro con tutte quelle che tira in bacio, che tira per la giacchetta Prodi, poi telefona D'Alema che gli dice no guarda ti riceve Speranza perché io non c'ho tempo, allora tira in bacio. E poi ecco la cosa che mi fa impazzire, che fa impazzire secondo me, per questo che secondo me è detto che tutte le questioni importanti, cioè, quindi il lavoro che sta dietro al Job Act, lo Ius Soli con le grandi questioni che prendono, sono tutte usate a fine strumentale, non per se stesso, ma se oggi vedi anche, leggerai poi nella tua sempre meravigliosa rassegna stampa che farai, leggerai le prime pagine dei giornali e vedrai lo Ius Soli tirato in ballo non perché, e su questo ci potremmo dividere, ci potremmo scannare sulla sostanza della cosa, se discutiamo io e te ci scanniamo su che cos'è lo Ius Soli e su se per te è necessario o no, è importante. No, lo Ius Soli diventa uno strumento per avvicinare o no Bersani. Ma ti rendi conto? Se non lo volete fare, non fatelo. Se lo dovete fare, fatelo, ma per piacere, senza nessun incastro né con Bersani né con Ventura né con la nazionale, perché non c'entra, non ci azzecca niente. E ci fermiamo solo per il traffico, Mario, resta là. Studiare, fare stage, lavorare, fare impresa all'estero. Una generazione mobile. Il mondo non ha più barriere per i giovani. Radio 24 vi dice come fare per preparare la valigia e partire. Informazioni pratiche, dritte, testimonianze dirette, offerte di lavoro e siti internet di riferimento oltre confine. Un manuale utile per cogliere le enormi opportunità di studio e professionali in questo piccolo mondo interconnesso, ovunque vogliate andare. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'espatrio, naturalmente qui su Radio 24. I già svegli. Buongiorno, io sono già sveglio perché vado a lavorare tutte le mattine, 5:15, e onestamente che l'Italia sia fuori dal mondiale non mi tocca, perché tanto dentro o fuori il mio stipendio è sempre uguale. Ma chi se ne frega? Io premi partita nel mio lavoro, non ne ho mai ricevuto. Buongiorno Telese, io sono uno di quelli che si alza presto la mattina per lavorare e faccio il consulente aziendale e viaggio. Ma perché non ci scandalizziamo che qui festeggia una rivoluzione d'ottobre che ha fatto 100 milioni di morti e non se ne parla mai? E dei morti dall'altra parte non se ne parla mai? Ciao Telese, io ti telefono per dirti che ci sono gente che tira sassi su auto nelle autostrade. Qualcuno che le idee non ha pronte, per gioco tira pietre giù dal ponte, è forse pazzo? O è solamente una gran testa di te? Buonasera Tese, io so che lei non ha competenza, non è la trasmissione giusta, ma vorrei dire qualcosa sulla Tari. La Tari è stata sbagliata, chissà perché è sempre a favore loro. Ah Luca Telese, che delusione, accidenti a te. Cambia il conduttore ma non cambia la magagna. Basta! Oggi, al culmine del pluralismo, ci siamo autocriticati inserendo questo parere caustico. Ricordate, la segreteria dei vostri messaggi, dei vostri pensieri, dei vostri sogni. 02 30 22 44 92 è la grande autocoscienza dell'Italia. E però qui con Mario Giordano volevo sentire un altro frammento di quel bellissimo inno, perché poi si dice inno di Mameli, che poi sarebbe il canto degli italiani, ma in realtà è l'inno di Novaro, cioè scritto musicalmente a Novaro, e c'è una bella disputa su come debba essere eseguito, in due mezzi, in quattro quarti, più veloce, più ritmato. Sentite la versione rock. Fabio, a te piace o no? No, non può piacere. Ma cioè, come piace fai? Perché... È bellissimo. Ma no. È il testamento morale di un ragazzo che ha 21 anni, è morto nella battaglia difendendo il Gianicolo, è il canto della speranza degli immigrati che sono andati a lavorare a fecondare con loro sudore l'Europa. È un'altra cosa, se mi dici tutto quello che ricorda, che rappresenta, è un grande significato, ma se mi dici se è bello, no, cioè si sentono inni quando facciamo appunto, che sono le uniche occasioni rilevanti, i campionati del mondo di calcio, senti inni che hanno un'importanza, un'imponenza molto più della nostra marcettina, così, non è che bello, dopodiché rappresenta tutta una cosa, perché alla fine ci siamo legati, e ripeto, la mia unica preoccupazione è che adesso, diventando definitivo, rischi di essere abolito, perché noi siamo bravissimi a tenere le cose provvisorie. Noi, io e te, abbiamo fatto la maturità provvisoria istituita nel 68. Esatto. Allora, c'è ancora tanto da sentire. Fiano che difende le grandi intese. Renzi ha detto: non abbiamo preclusione o veti per nessuno a sinistra sulle alleanze, così non abbiamo al centro. Verdini non l'ho sentito nominare, che strano, quando abbiamo approvato la legge sulle unioni civili. Come si fa ad impedire che una persona così diversa dal PD dia i propri voti? Con un metodo elettorale come quello della Francia, che era quello che avevamo proposto noi per l'Italico. Noi l'avevamo proposto quel modello di legge all'Italico, ci è stato bocciato. Ci sono due punti sul tavolo. E secondo te Verdini passerà alla storia o solo alla cronaca? Beh, adesso la storia mi sembra francamente eccessivo, è già passata alla cronaca, però vedi, dicevo, tutto questo tipo di ragionare, poi uno si lamenta che la gente è schifata, giustamente nelle telefonate che facevi sentire prima la gente guarda sostanzialmente i problemi suoi, quello che lo toccano vicino, tutto questo dibattito di legami, di alleanze, che ci appassiona tanto, figuriamoci, ci scriviamo pagine e pagine di giornali, è lontano chilometri, anni luce rispetto a quello che... Vero. E quindi allontana sempre di più ed è incomprensibile. Posso dire un'altra cosa, visto che abbiamo iniziato parlando della moglie di Brizzi, quando prima dicevamo della Caccia Tremo, su tutti i siti ieri e oggi anche su qualche giornale c'è un titolo: Mara Venier, un politico mi molestò a casa sua. Poi uno va a leggere la dichiarazione di Mara Venier, dice: una sera 25 fece anni andare fa, via tutti. Andare via tutti, andai a fine cena, questo dice: vieni a vedere i miei quadri. Io vado, vediamo sti quadri, quando torniamo in sala non c'era più nessuno e scopro che guarda, hai capito male, e me ne andai. Quindi quello invita a vedere i quadri e lui dice: no, molestata da un politico. Ma francamente siamo all'assurdo. Mancava la collezione di farfalle. Ma molestato perché, esatto, mi chiede venire il padre, quella dice: no, scusa, e se ne esce. Capisci quando dico che c'è un 25 anni fa. Vero. Adesso, se esce il nome di questa, spero non esca, però è veramente una cosa esagerata. In questo, secondo me, la moglie di lui toglie un elemento vero nel suo dramma, nella sua difficoltà personale. Ed è quella che dicevamo fino all'inizio, che si è creato una cosa pazzesca. E allora la Brilli, molestata dal produttore che aveva un appellativo particolare. La Brilli, vai! Nancy, punto 9, la Brilli! No, perché ha detto, l'hai letto l'epiteto con cui è stato definito? Sì, l'ho letto, non farlo ripetere. Eh no, ripetilo, dai. No, come dire, lo dicevo all'inizio, cioè la caccia agli steri, l'esagerazione, cioè anche essere che tanti anni fa una persona che è entrata nel bagno all'asilo è entrato nel bagno delle bambine, sì, che è quello dei bambini, è entrato perché ci ha sbagliato davvero, non perché voleva molestare le bambine, però no, a questo punto, no, viene fuori che quando eri piccola una cosa enorme, cioè in cui che fa male anche a quegli violenza che ci sono stati e che se ci sono stati vanno individuati e puniti, ma non in questo clima generale che è davvero diventato una roba. Fin ecco la Nancy. Si capiva che è diventato devastante. Molestata per interposta persona. Un tizio che non avevo mai visto mi disse: ma guarda che questo produttore è molto interessato a te. E io gli dissi: vabbè, sono un po' tanto anziano e poi proprio non sono interessata. Essendo imbarazzata, pensando, boh, sarà un tipo di battuta, un tipo di... Questo si girò molto aggressivo verbalmente, non mi ha sfiorata per carità, e mi disse: ma guarda che questo c'ha il cazzo più ciucciato d'Italia. Madonna mia, ecco. Madonna mia. No, basta, no comment. È tornato in groia. Fonda un nuovo movimento e quindi deve tornare il Crozza fantastico che lo imitava. 9. Non è colpa di nessuno se tutti gli italiani vedono me un profeta. No, vabbè, adesso no. Un messia sceso in terra per la prima volta. Nel caso sarebbe la seconda, eh. Sì, ma lei si riferisce a un tizio il cui padre non era un generale dell'aeronautica. Ma no, il certo. Mio vale di più. Avevo chiesto un Crozza in groia, è arrivato Minniti, ma va benissimo. No, Baleo, impara a parlare e impara la grammatica prima di leggere i giornali.